Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.37 tramonterà alle 16.21, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Per contrastare la strapotenza delle ditte sementiere, da qualche tempo c'è il ritorno alle sementi autoprodotte, alla ricerca delle piante che meglio si adattano al clima e al terreno di aziende e territori. Ci sono esperienze avanzate soprattutto in fatto di radicchi, cui Ayaba ProBio ha dedicato una giornata di studio. Questo nel servizio di apertura, per parlare poi del mercato del latte, che in questo periodo di relativa calma deve saper sfruttare alcune caratteristiche produttive per uscire dalla normalizzazione che il mercato vorrebbe imporre. Terza e ultima puntata poi sul rapporto tra amore e orto, per capire quanto questo connubio sia strategico. Si passa poi all'eleboro, pianta meravigliosa ma ad alta tossicità e anche magia. Per la sicurezza alimentare avremo tutte le accortezze da seguire nella conservazione e lavorazione di cibi cotti e crudi, mentre per la rubrica della ricetta una scheda sulla minestra brustolà, che ha a che vedere anche con l'infedeltà coniugale. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. In un mondo dove si tende a uniformare tutto, dove le grandi ditte sementiere stanno producendo addirittura gli ibridi del radicchio, ci sono delle risposte che arrivano dal basso, da chi vuol fare una sua scelta libera da questi condizionamenti. Stiamo parlando di radicchio e lo facciamo con Andrea Pitton, che ha la sua azienda Arrivarotta, che venerdì su questi argomenti ha ospitato un convegno dell'Ayaba ProBio. Per quanto riguarda il radicchio, la sua risposta ai nuovi radicchi ibridi qual è? Fin da subito ci siamo accorti che per riuscire a essere riconoscibili dovevamo in qualche modo differenziarci dalle produzioni del resto dei nostri colleghi. Insomma, è un modo per differenziare le nostre produzioni e abbiamo visto che è quello di trovare delle piante che gli altri non potessero in nessun modo copiare, insomma. E quindi ci siamo messi a selezionare i nostri semi e abbiamo cominciato con i radicchi, però poi siamo andati avanti con altre, cipolle, pomodori, finocchi, e poi con i radicchi abbiamo anche fatto due e anche tre varietà diverse. Quindi si parte dalla selezione in casa del seme. È un ritorno al radicchio di una volta oppure si vuole andare avanti? Beh, si vuole recuperare senz'altro dei sapori che sono stati persi, ma anche delle varietà che sono state perse e dimenticate. Non so se è un ritorno, secondo me è un rientrare su delle strade che avevano percorso i nostri nonni, i nostri bisnonni. La selezione delle sementi è sempre stata fatta da contadini, tranne gli ultimi 100 anni. È un recuperare un percorso e rientrare appunto nella strada che abbiamo sempre fatto, e sempre fatto con sapere, con passione, ma anche con competenza. Coincidono con le strade del bio queste nuove prassi, queste vecchie prassi, meglio? Sì, coincidono con le strade del bio, anche perché il bio è totalmente valorizzato recuperando queste conoscenze, insomma questo sapere. E da un punto di vista commerciale, perché si lavora anche per quello, c'è un incontro con la domanda? Cioè la gente chiede questi vecchi nuovi radicchi oppure si accontenta anche di quello nella vaschetta già lavato e già pronto solo da condire? La gente non chiede perché non è abituata a questo genere di cose, no? Non si pone il problema dell'origine dei semi, però la gente, quando gli raccontiamo cosa facciamo, diventa parte e diventa anche entusiasta di questo modo di fare. in una bancarella in mezzo a tanti radicchi, quando noi gli diciamo questo è un radicchio che selezioniamo noi, che noi abbiamo cura di questo radicchio, la gente dice sì, allora lo prendo. Stiamo arrivando a un radicchio friulano in contrapposizione ai grandi radicchi del vicino Veneto. Beh, noi abbiamo preso probabilmente a piene mani dai radicchi veneti e siamo andati avanti con le loro selezioni. È difficile dire se ci sarà un radicchio friulano. C'è un radicchio che è coltivato in una zona vocata alla produzione dei radicchi, che avrà caratteristiche che partirà da delle piante venete, ma che modificherà anche i suoi sapori in base a chi seleziona, in base ai terreni, che sono sicuramente diversi dai terreni veneti. Per cui cambierà e potrà anche diventare un radicchio friulano col tempo, insomma. Per la rubrica del Bio oggi Cristina Micheloni ci parla di latte e a suo avviso, lo mette anche nel titolo, non tutto il latte è dello stesso colore. Perché? Questa volta non parlerò dei tocoferoli, dell'erba, del fieno, delle vacche felici che pascolano e quindi del colore del burro che non deve essere bianco, almeno d'estate deve essere bello giallo. Ma parlerò del modo in cui vengono allevate le vacche e il modo in cui vivono le vacche stesse, ma anche i loro allevatori, in gran parte infelici, e le vacche e gli allevatori, per un sistema che li sta pian piano stritolando. Il latte è un prodotto ormai globale che dall'Europa va in Africa, va in Asia, trasformato in polvere e in altri prodotti derivati, ma anche che da altri continenti e paesi arriva sulle nostre tavole, in un turbinio di processi industriali e di passaggi commerciali molto molto molto complicati e economicamente pesanti. Non sempre tracciabili. Non sempre tracciabili, ma il cui risultato finale è quello di stritolare l'anello più debole di tutta questa filiera, che è l'allevatore e anche la vacca di conseguenza. Questa infinita crisi del latte che ha avuto luogo negli ultimi anni adesso morde un pochetto meno, un po' gli allevatori in qualche maniera, con pesanti danni comunque al settore, vedono un pochetto di futuro, ma la situazione non è sicuramente stabile, siamo solo in attesa del prossimo momento di pesante crisi. Il settore del latte biologico per molti è stato vissuto come un momento, una via d'uscita, ed è tuttora sicuramente una nicchia un po' più felice, ma non è un porto sicuro, perché gli stessi meccanismi che hanno devastato il settore del latte convenzionale si stanno avvicinando e stanno cominciando ad operare anche nel latte biologico. Che cosa significa? Significa cominciare a ridurre l'importanza delle vacche, degli allevatori e degli agricoltori che danno a mangiare alle vacche, eccetera, a vantaggio di chi viene dopo nella filiera. Ora, noi credo che invece abbiamo ancora un momento di possibilità di azione in quello che è il latte biologico, facendo leva su alcuni temi cui i cittadini e i consumatori sono sensibili, che sono il benessere animale. Al di là di veganesimo o meno, il benessere animale è importante per tutti, non è solo per chi fa alcune scelte alimentari. L'efficienza, che significa soprattutto non andare a dar da mangiare ai poligastrici qualcosa che possono mangiare già gli umani, riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche preservazione dei territori e dei paesaggi. Non per ultima la qualità vera del latte e dei formaggi che ne derivano. Su queste cose qui, e facendo, non derogando assolutamente su nulla di tutto questo per quanto riguarda il biologico, credo ci sia una via di sicurezza, non di salvezza, non di denari e di grandi successi commerciali, ma di stabilità, che alla fine è quello che gli allevatori vogliono. Di tutto questo parleremo con l'occasione di un docufilm che proietteremo gratuitamente al Caffè dei Libri l'11 dicembre dalle 20 in poi. E tutte le informazioni comunque le trovate sul sito e sulla pagina Facebook della trasmissione. È un docufilm girato da un regista altoatesino che mette a paragone diverse maniere di fare latte, non solo in stalla ma anche di quello che succede dopo, e quindi tutto quello che noi, su cui noi cittadini possiamo agire. Finalmente, ci sono volute però 3 puntate, Stefano Montello oggi ci svela perché senza amore non si fa un orto buono, e a dire suo i friulani sarebbero avvantaggiati. Naturalmente, nelle puntate precedenti ho scherzato un po' sulle lingue, ma parlare di orti è diventata una faccenda così dannatamente seria che ogni tanto mi pare che sia il caso di stemperare un po' e di prendermi un po' in giro. Quindi vi produco in scuse affettuose se qualche parlante delle lingue citate possa sentirsi offeso, è soltanto un gioco. Che però ora si fa serio. E vado finalmente al nocciolo della questione, perché voglio parlare della mia lingua madre, cioè il friulano. Il friulano non ha la declinazione del verbo amare. Tutto ciò che è stata capace di produrre per abbracciare la bellezza e la sensualità delle cose, la loro durata o la loro decomposizione, è stata la parola amor, in cui la vocale O è raddoppiata dall'accento circonflesso. La vocale O è la vocale della sorpresa, dello stupore. E se l'amore è soprattutto stupore, allora la O, raddoppiata dal circonflesso della lingua friulana, sta a indicare doppio stupore, doppia meraviglia, incantesimo, beatitudine, benedizione. E a ciò si aggiunga che il friulano ha l'intelligenza semantica di contenere in sé un doppio significato, uguale ma contrario. Se dividiamo in sillabe la parola amor, otteniamo le due parole, pronome e verbo, amor, muore. Amore e morte, eros e thanatos, ciò che si ama muore, l'amore porta in sé la morte e la morte è intrisa d'amore. Tomi di poesia e discussioni filosofiche racchiuse in un'unica parola. Nessuno può dimostrare che le lingue non sbaglino, ma possono dare del popolo che le ha espresse una visione solo parziale e a volte distorta. Ma queste considerazioni mi sembrano piuttosto esplicative e veritiere. Va da sé allora, secondo me, che dichiaro la mia parzialità senza inibizione, la lingua più appropriata per parlare di orto e per parlare d'amore è la lingua friulana. Lingua contadina e lingua di poesia per eccellenza. Dunque, l'amore è stupore e gioia di meravigliarsi ancora e nonostante tutto. E se gusti una fragola matura, o se osservi un pesco in fiore, la scorza lucente di un peperone, o i volteggi di un'ape dentro i fiori del zucchino, questo deve essere il sentimento che bisogna accogliere. Quello della meraviglia, quindi quello dell'amore. Senza amore, le piante si ammalano, e senza amore non si fa orto. Nonostante il suo altro nome, Rosa di Natale, la sua bellezza e il fatto che fiorisce in questi giorni freddi, l'elleboro è una delle piante più tossiche che si possono trovare qua da noi, ma anche tante virtù quasi magiche che ci descrive Antonino Danelutto. Quando l'inverno è alle porte e la natura gode il meritato riposo, la rosa di Natale o elleboro bianco prepara i suoi boccioli che fanno capolino tra le foglie color verde scuro, lucide e coriacee. Non teme il freddo, anzi spesso riesce a fiorire anche in presenza della neve e solitamente per Natale si appresta a sfoggiare la candida corolla all'interno della quale risaltano i numerosi stami dorati. Dal punto di vista botanico, l'elleboro bianco, nome scientifico Elleborus niger, in friulano Forank o lebro neri, è una pianta erbacea perenne alta fino a 30 cm, dal cui rizoma orizzontale si elevano una o due foglie persistenti, divise in 5-9 segmenti acuti, dentati in alto. Il fiore è unico, grande e bianco, sfumato di rosa. Cresce nei sottoboschi di pinete e cedui, su pendii sassosi e su terreni calcarei, normalmente a 300-1000 metri di altitudine, e fiorisce da dicembre a marzo-aprile. Oggigiorno l'elleboro non viene più impiegato a fini terapeutici, data la sua elevata tossicità. In passato era usato come vermifugo, purgante energico, emetico, diuretico, perfino cardiotonico, ma provocava numerosi decessi. Una forte dose poteva causare la morte in pochi minuti. All'esterno era utilizzato come starnutatorio e contro i pidocchi, provocando intossicazioni anche gravi. Perfino al contatto con la linfa può far insorgere una fastidiosa irritazione cutanea con vesciche. Nella nostra regione è più diffuso l'elleboro profumato, Elleborus odorus, che ha fiori verde giallastri e foglie con segmenti più stretti, dentati a partire quasi dalla base. Tutte le specie del genere Elleborus sono parimenti tossiche, eppure Ippocrate, V-IV secolo a.C., utilizzava la radice come purgante drastico, per questo la pianta è detta anche radice di Ippocrate. Presso i popoli antichi l'elleboro era considerato un rimedio contro le malattie mentali, tant'è che per indicare un matto si usava dire «quello ha bisogno dell'elleboro». Secondo una credenza popolare inglese, chi si cospargeva il corpo di polvere di radice di elleboro, mentre camminava si rendeva invisibile. Un'antica leggenda narra che verso la fine di dicembre una pastorella piangeva perché non aveva regali da portare al bambin Gesù. Un angelo, impietosito, scavò la neve dove erano cadute le lacrime e lì spuntarono le rose di Natale, così la bimba, contenta, poté offrirle in dono a Gesù. Separare gli alimenti crudi da quelli cotti è la seconda chiave della sicurezza alimentare che oggi ci illustra Claudia Fontanini, la responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, che ci cura la rubrica Qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Gli alimenti crudi, specialmente carne, pollame e pesce, e i rispettivi liquidi di sgocciolamento, possono contenere microrganismi pericolosi. Un'adeguata cottura del cibo consente di bonificare gli alimenti, ma il prodotto già cotto può essere ricontaminato se messo a contatto con un altro alimento e quindi non essere più sicuro. È importante allora tenere separati gli alimenti crudi da quelli cotti o pronti per essere consumati. Così si evita che i microrganismi eventualmente presenti nei primi vengano trasferiti ad alimenti che non subiranno più trattamenti termici prima di essere mangiati. Anche nel frigorifero può esserci contaminazione tra alimenti, perché la bassa temperatura rallenta la moltiplicazione dei microrganismi, ma non li elimina. Come comportarsi in pratica? Tenere la carne, il pollame e il pesce crudi separati dagli altri alimenti già quando si fa la spesa. Nel frigo mettere la carne, il pollame e il pesce crudi nei ripiani inferiori rispetto agli alimenti cotti o pronti al consumo, in modo da evitare la contaminazione dovuta a possibili liquidi di sgocciolamento. Gli alimenti poi non devono essere poggiati direttamente sui ripiani del frigorifero, ma vanno messi in contenitori per alimenti muniti di coperchio, tenuti nelle confezioni originali o avvolti nella pellicola. Anche i cibi preparati in casa devono essere riposti in contenitori puliti e con coperchio. Si consiglia anche di avere un tagliere dedicato a carne o pesce crudo e un altro per i prodotti cotti. Usare differenti utensili per i cibi cotti e mai porre i cibi cotti nei contenitori in cui sono stati contenuti i cibi crudi. Per esempio, piatti e forchettoni usati per trasportare o manipolare carne cruda in occasione di grigliate non devono poi essere utilizzati per trasportare o maneggiare la carne una volta cotta. Si consiglia inoltre di rimuovere gli imballaggi secondari dagli alimenti prima di metterli in frigorifero, per esempio i cartoni intorno agli yogurt, in modo da evitare la contaminazione di alimenti e frigorifero da parte di microrganismi che potrebbero essere presenti su questi imballaggi. La minestra brustolà è la ricetta che ci propone oggi Roberto Zottar in un inquadramento che arriva ad occuparsi persino dell'infedeltà coniugale. Sentiamo perché. Nella rivisitazione dei piatti caratteristici della tradizione che stanno tornando di moda, non posso dimenticare il brodo finto nelle molte varianti di brut brustolat, brut brusat, brodo brustolà o Einbrennsuppe, da Einbrenn, che è il roux in tedesco, cioè il soffritto di farina tostata nel burro che è alla base di questa zuppa. Questo brodo era anche detto brodo de becchi, cioè brodo dei cornuti, perché è una ricetta da farsi all'ultimo momento, quando la moglie tornava a casa tardi, senza aver avuto tempo di cucinare a lungo e non voleva farlo sapere al marito. In altre regioni d'Italia, a questo proposito, c'è un altro piatto semplicissimo, povero di ingredienti anche se gustoso, la pasta dei cornuti, che altro non è che la comunissima pasta al burro. Anche se oggi questo piatto è molto apprezzato nonostante la sua semplicità, sembra che anticamente per un uomo vedersi servire questa pietanza era una vera e propria offesa. Non è chiaro il motivo per cui le corna siano simbolo dell'infedeltà coniugale, ma qualcuno suggerisce che l'aggettivo cornuto, nel senso di tradito, derivi dal maschio della capra dotato di corna e detto anche becco, la cui compagna sembra sia nota per la disinvoltura con cui cambia partner. Tornando in cucina, la contessa Perusini lo annovera tra i piatti di magro di vigilia. Piero Adami scriveva invece di un brut brusat che prevede l'aggiunta alla base di farina soffritta nel burro anche di patate lesse oltre ad acqua e sale e a piacimento anche un bicchiere di vino nero. Se il soffritto era a base di farina di grano turco lo chiamava zuff brusat. Molti lo aromatizzano con kümmel e fior di finocchio. Questo piatto povero è stato rivisitato e riscoperto anche dal grande Gianni Cosetti, che proponeva un raffinato brut brusat dove alla farina tostata nocciola veniva aggiunta anche acqua e latte e con il suo estro culinario prevedeva poi una grattata di tartufo. Oggi vi propongo un brut brustulat di uno chef stellato di Cormons che invece di acqua o latte usa un brodo di carne leggero. Soffriggete 250 g di burro, 150 g di farina 00 e 125 g di farina di polenta. Dovete cucinare per 20-25 minuti ottenendo quello che si chiama un roux nocciola. Con molta attenzione aggiungete 2,5 litri di brodo bollente e cucinate ancora una decina di minuti. Salate, se necessario, aromatizzate con un trito di maggiorana e finocchietto selvatico e una macinata di pepe. Otterrete una zuppetta scura, densa, profumata, sapida, molto gustosa e corroborante, che servita in tazze ben si adatta come entrée anche di una cena raffinata. Volendo, si può accompagnare con frittatine o quenelle di ricotta cotta al forno. Buon appetito! Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso le contrattazioni cerealicole e camere di commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento buono mercantile tra 20,20 e 20,50, l'orzo tra 20,40 e 20,90 e la soia tra 33 e 33,50. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 10 centesimi, mentre la soia è diminuita di 4,70 euro al quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di pesantezza. I mercati dei bovini e macello quotano le vacche fine carriera e prima qualità peso morto tra 2,40 e 2,80 euro al chilo, quelli di seconda tra 1,80 e 2,30. Quotazioni ancora in calo nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono pagati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 5,10, i frisoni tra 1,60 e 1,90 e i bruni tra 1,50 e 1,80. Anche nel settore suinicolo continua la tendenza congiunturale, i lattonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 1,84 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,14. Infine, mercati attivi anche sui mercati aviconicoli, con i poli a terra pagati tra 1,05 e 1,07 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone e le anatre tra 2,50 e 2,54, le oche tra 4,60 e 4,80, i conigli oltre 2,5 kg, quotati dal CUM di Verona a 2,48 e 2,54 euro al chilo, e le uova oltre 73 grammi a 14 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Il mese di dicembre inizia con correnti in quota da ovest-nord-ovest, che mantengono prevalenza di sole e temperature relativamente miti. Successivamente le correnti atlantiche sono più umide, con nubi anche basse, ma il 3 qualche schierita sia ad ovest e sui monti. Il 4 le temperature localmente superano i 15 gradi, lo zero termico i 2500 metri, e di nuovo si registrano temperature oltre la norma, sulla scia del caldo novembre 2018, anche a causa delle poche notti serene che impediscono il raffreddamento per il raggiamento. Il tempo atlantico comporta infatti molta nuvolosità, alta umidità, ma poche piogge e va avanti fino al giorno dell'Immacolata, quando un fronte più definito, anche se piuttosto veloce, interessa la regione. Nella notte e di primo mattino si hanno piogge sparse, più abbondanti a Trieste, con raffiche di boro a 80 all'ora e un po' di neve sui monti oltre 1000 metri. Passato il fronte, l'alta pressione delle Azzorre da domani si porterà verso il nord Atlantico, favorendo la discesa di correnti più fredde in quota dal nord Europa verso i Balcani. Avremo qualche giorno di variabilità, con ampi spazi di sereno e temperature in calo. Già domani potrà aversi qualche gelata in pianura, mentre martedì e mercoledì le gelate saranno più diffuse e anche sulla costa le minime si avvicineranno allo zero. Le massime rimarranno comunque sotto i 10 gradi. Soffierà vento da nord solo in quota, mentre nei bassi strati la ventilazione rimarrà debole, ma sufficiente a mantenere l'atmosfera secca. A Santa Lucia la regione potrebbe essere sfiorata da un fronte sull'Italia centrale, ma lo scenario è ancora incerto. In seguito potrebbe arrivare altra aria fredda in quota, con un'ulteriore discesa delle temperature. Ma per essere correttamente informati sulle evoluzioni, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sul web, sui social network e naturalmente sui programmi radiofonici e televisivi della RAI regionale. Alla prossima! Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Santa Luzia, il fred al cruzia di Nadal, un fred mortal, Prindalan, un fred di chian. Ovvero a Santa Lucia il freddo stuzzica, a Natale un freddo mortale, al primo dell'anno un freddo da cani. Proverbio non aggiornato con il cambiamento climatico. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail levitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vi Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.